G. Ascolta e indica la parola che senti. 1. È la figlia di Mario. 2. Sembra di stare al Polo Nord. 3. Quale è il lato positivo? 4. Questo è illegale. 5. È una maglia di lana. 6. Non vale nulla.